Allora, benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su una visione, direi, piuttosto critica del futuro dell'intelligenza artificiale. Prendiamo spunto da un testo di Marco Guastavigna, Quale futuro per l'AI? Boh, concetti contrastivi. E la cosa secondo me più interessante è che usa delle metafore visive molto forti. Sì, esatto. Due immagini in particolare. Proprio così. Vogliamo partire da lì, da queste due rappresentazioni grafiche, un diagramma con degli ingranaggi e poi. Un imbuto. L'idea è usarle per decostruire un po' le dinamiche dell'AI. È un'ottima idea perché l'AI non è solo, come dire, tecnologia astratta. È calata in un contesto preciso. Economico, sociale, anche materiale, sai. E queste immagini, beh, aiutano a vedere proprio questo, le connessioni nascoste. Perfetto. Allora, iniziamo dalla prima immagine, questi ingranaggi. Ce ne sono tre, interconnessi. L'autore li etichetta come proliferazione di dati, abilità addestrativa e potenza di calcolo. Come si legano tra loro? Sembra un ciclo, vero? Sì, l'immagine rende bene l'idea di un meccanismo che si autoalimenta. Cioè, più dati ci sono, più si affina l'addestramento degli algoritmi. Ma questo addestramento, beh, richiede sempre più potenza di calcolo, no? Pensa ai data center enormi. E questa maggiore potenza, a sua volta, cosa fa? Permette di raccogliere ancora più dati, in modo sempre più, pervasivo. Un ingranaggio tira l'altro, insomma. Chiaro, e l'autore come interpreta questo ciclo, al di là dell'aspetto tecnico, intendo. Questo è il punto. Per l'autore non è un ciclo neutro. Lo chiama, o meglio, lo inquadra nella logistica capitalistica di cattura della conoscenza collettiva. Un termine bello denso. Sì, diciamo che in parole più semplici vede questo meccanismo come il cuore del cosiddetto capitalismo cognitivo. È un sistema che, secondo lui, estrae valore economico dalla conoscenza che tutti noi produciamo collettivamente. Esperienze, opinioni online, dati. Spesso senza che ce ne accorgiamo, tramite le piattaforme, tramite la AI. Capisco. Quindi gli ingranaggi in questa lettura rappresentano proprio questa estrazione di valore, questa monetizzazione della conoscenza diffusa. Esattamente. L'immagine tecnica, quella degli ingranaggi, serve a visualizzare una dinamica che è fondamentalmente economica e direi anche di controllo. Una critica a un ciclo potenzialmente vizioso, come dice l'autore, per la libertà individuale. Ok, chiarissimo questo primo punto. Passiamo allora alla seconda immagine che mi sembra suggerisca un'altra dimensione del problema, l'imbuto. Qui vediamo diversi elementi che convergono verso il basso, verso la strettoia dell'imbuto. Sì, qui lo sguardo si allarga, diciamo, ai costi o alle pressioni sistemiche. Nella parte larga dell'imbuto troviamo energia divorata, quindi l'enorme consumo energetico delle AI, poi l'impatto ambientale che non è solo CO2, ma anche, beh, risorse naturali, l'acqua usata per il raffreddamento, i rifiuti elettronici. E Certo. infine le tensioni geopolitiche, la competizione globale, USA, Cina, Europa, la corsa ai chip, per esempio. Giusto. E tutti questi fattori, queste pressioni vengono incanalati verso un punto interrogativo. Alla fine dell'imbuto c'è un punto di domanda. Cosa significa? Quel punto interrogativo è fondamentale. Rappresenta quella che l'autore chiama opacità sistemica. Ci dice che il futuro delle AI alla fine non è affatto scontato. Non è una linea retta dettata solo dal progresso tecnico che vedevamo negli ingranaggi. Al contrario, è pesantemente condizionato da questi fattori molto concreti: l'energia disponibile, i limiti ambientali, gli equilibri politici globali. L'esito è incerto, aperto. Quindi l'imbuto ci mostra l'imprevedibilità dovuta a vincoli esterni molto potenti. Mettendo insieme le due immagini, allora, da un lato abbiamo gli ingranaggi, il motore interno, diciamo, che gira su dati e calcolo, con una logica economica forte. Sì. Dall'altro l'imbuto ci ricorda che questo motore non gira nel vuoto, deve fare i conti con limiti reali, materiali, politici, che rendono il futuro, beh, un'incognita. Esatto. Le due immagini insieme offrono una visione più completa e decisamente meno trionfalistica del fenomeno AI. Mettono in luce sia il meccanismo interno, sia le sue, diciamo, frizioni col mondo reale. Molto chiaro. E questo ragionamento sulle metafore visive è interessante di per sé. Sì, fa riflettere. Ci porta a chiederci quanto queste stesse rappresentazioni, gli ingranaggi, l'imbuto, finiscono per orientare il nostro modo di pensare alle AI. Cioè, ci danno una chiave di lettura, certo, ma magari ne chiudono altre. Viene da domandarsi se, usando metafore diverse, potremmo forse immaginare futuri differenti, percorsi alternativi per questa tecnologia. È un pensiero, credo, su cui vale la pena soffermarsi un attimo.